Non sapevo dell'esistenza degli Ibakujumoku. Ne venne a conoscenza del tutto fortuitamente qualche anno fa, durante una delle mie periodiche visite a Kitakyushu, in Giappone. Questa città dove esiste una sede dell'INV, guidata dal mio amico professor Tomonori Kawano, rappresenta da tanti anni la mia personale porta d'ingresso per il Giappone e la sua cultura. Ogni volta che ci vado, cerco sempre di ritagliarmi un po' di tempo libero per conoscere qualcosa di nuovo su questo impero così lontano. Una delle attività che trovo più divertenti è pranzare o cenare da solo in qualche locale tipico, senza conoscere praticamente nulla di giapponese, tranne alcune semplicissime forme di cortesia e i numeri scritti e parlati. La cucina giapponese è talmente varia e ricercata che è difficilissimo incappare in qualcosa di poco gradevole. La mia personale procedura prevede quindi di accomodarmi nel locale ed iniziare ad indicare del tutto casualmente una serie di pietanze scelte sulla base di quanto mi piacciono i caratteri che le rappresentano. Normalmente si tratta di piattini di piccole dosi, che in breve tempo iniziano ad affollare il tratto di banco di mia competenza, trasformandolo in una piccola opera d'arte. È lì il momento che preferisco. Si prova l'emozione del gioco d'azzardo, ma senza alcun rischio, tranne quello trascurabile che arrivi qualcosa di veramente lontano dai nostri gusti. Poi inizia il piacere della scoperta. Di cosa si tratterà? Quali sono gli ingredienti? Come sarà stato cotto? Durante una di queste cene al buio mi trovai appunto davanti ad un piatto enigmatico che resisteva a tutti i miei tentativi di comprensione. Si trattava di una specie di sacchetto biancastro delle dimensioni di un raviolo, leggermente fritto e che conteneva una sostanza cremosa e dal gusto di pesce. Il sapore era delizioso e così, dopo averne consumata una prima porzione, ne avevo prontamente ordinata una seconda per studiarla più a fondo. Mi ricordava qualcosa della cucina italiana, ma non riuscivo a capire cosa. Mi ci arrovellavo da un po', ma senza alcun costrutto. Avevo anche provato ad interloquire con il cameriere, ma in Giappone praticamente nessuno parla altro che il giapponese. Ero sconsolatamente pronto a ingerire anche la seconda porzione, lasciando i miei quesiti insoluti, quando accadde qualcosa di inaudito. Una di quelle cose che mi fa amare l'andare a mangiare da solo in Giappone. Un anziano signore, mio vicino di tavolo, mi rivolse la parola. E la cosa è già di per sé pazzesca. Mai nessuno in tanti anni di sollevante mi aveva rivolto la parola senza essere interpellato. Ero sempre io a farlo. Ma non basta. Lo fece in un perfetto ed elegantissimo italiano che si intoppò soltanto per un momento, proprio all'inizio della nostra conversazione, quando imbarazzato non trovava le parole adatte per dirmi, senza spaventarmi, cosa stessi mangiando. Vede, caro signore, noi diamo grande valore alla riproduzione della vita, esordì lasciandomi alquanto disorientato. Anche se la nostra cultura è spesso nota in Occidente per le sue connotazioni aggressive, in realtà c'è una forte componente di panpsichismo, disse proprio così, nella nostra civiltà. Lo rassicurai, per motivi di cortesia, sul fatto che questa connotazione aggressiva del Giappone tendeva ad essere superata. Il mio sguardo, tuttavia, dovette rimanere perplesso. Cosa c'entrava il panpsichismo con il mio piatto? Ci riprovò. In conseguenza della presenza della divinità all'interno di tutto, noi tendiamo per tradizione a consumare ogni singola parte degli animali. Ecco che ci stavamo avvicinando. Quindi quel piatto che lei sta consumando, che incidentalmente si chiama Shirako e che è senza dubbio tra i miei preferiti, è prodotto con la linea germinale maschile di differenti specie marine. La linea germinale maschile intende... Già, come lo chiamate in italiano? Sperma. Lui, esatto. Ecco cosa mi ricordava. Il lattume, una squisita specialità siciliana fatta con le sacche spermatiche di tonno, o ricciola, l'equivalente maschile della bottarga. Il fatto che anche in Italia si consumassero parti così poco nobili dei pesci, credo per motivi molto più materiali che legati al panpsichismo, rassicurò il mio nuovo commensale. Ci presentammo. Era un diplomatico in pensione. Nella sua carriera aveva servito il suo paese come console in Italia per molti anni e vi aveva appreso la lingua. Continuammo a conversare a lungo e con grande piacere reciproco, fin quando poco prima di salutarci mi domandò: Immagino che lei, professore, avrà già avuto modo di visitare i nostri Ibakujumoku. E lasciò che la domanda galleggiasse tra noi per qualche secondo. Risposi che non li avevo mai sentiti nominare e che me ne dispiaceva. Qualunque cosa fossero gli Ibakujumoku, non è educato in Giappone dire che si ignora qualcosa senza scusarsene. Il console rimase molto colpito da questa mia lacuna. Ma lei si occupa di piante, deve senz'altro incontrarli, disse esattamente incontrarli, tanto che pensai si trattasse di un gruppo di persone che in qualche maniera si occupava di piante. Ma le successive parole dissolsero questa mia supposizione. Gli Ibakujumoku sono gli scampati alla bomba atomica. Un inno vivente alla vita. Sapevo che in Giappone i sopravvissuti alle bombe di Nagasaki e Hiroshima rivestivano un ruolo fondamentale di testimoni di quelle atrocità, ma non riuscivo a capire per quale motivo tenesse così tanto che io li incontrassi. L'equivoco non durò a lungo. Non sono uomini, ma alberi esposti alla bomba atomica. In Giappone chiunque li conosce e li rispetta. Io personalmente li amo. Dovrebbe conoscerli anche lei. Mi permetta di farle una proposta. Hiroshima non dista da qui che un paio di ore di treno. Se vuole posso accompagnarla nei prossimi giorni. Mi dica pure lei, se lo desidera. Da quando è morta mia moglie, le mie giornate sono per lo più vuote di impegni. Lo ringraziai di cuore e accettai senz'altro l'offerta. 2 giorni dopo, armati ciascuno del proprio bento, come si confà a 2 amici in viaggio, ci trovammo di buon'ora davanti alla stazione di Kokura, pronti per la nostra trasferta di Hiroshima. In poco più di 1 ora e mezzo arrivammo alla stazione di Hiroshima e 10 minuti dopo ero di fronte ai miei primi Ibakujumoku. Il console mi aveva guidato attraverso un magnifico giardino, di cui purtroppo non ricordo il nome, ad incontrare 3 alberi sopravvissuti alla bomba. Li ricordo benissimo: un ginkgo, ginkgo biloba, un pino nero giapponese, Pinus tumbergi, e un muku, Alphanante aspera. 3 alberi molto comuni in un qualunque giardino classico giapponese. Il ginkgo era vistosamente piegato in direzione del centro città. Il pino nero aveva una considerevole cicatrice sul fusto, ma tutto sommato stavano benissimo. Alberi normali all'apparenza, se non fosse stato per l'evidente sentimento di rispetto e direi di affetto che suscitavano nelle persone che erano lì ad incontrarli. 2 anziani signori, probabilmente marito e moglie, si erano accomodati su 2 seggioline portatili di fronte al ginkgo. Ed erano impegnati in una lunga conversazione con l'albero. Un ragazzo lo aveva velocemente abbracciato prima di continuare la sua passeggiata. Chiunque passando accanto agli alberi sembrava conoscerli bene e molti dai bambini agli anziani si inchinavano profondamente. Su ogni Ibakujumoku, unica caratteristica che li distingueva dagli altri alberi, era appeso un cartellino giallo. Domandai al console che cosa c'era scritto. Proverò a tradurglielo. Dice più o meno che siamo di fronte ad un albero che ha subito un bombardamento atomico. Poi riporta la specie vegetale ed infine la distanza dall'ipocentro dell'esplosione. Mi rispose indicando verso il fiume. L'esplosione è avvenuta laggiù, dove il fiume si biforca, esattamente a 1370 metri da qui. Quel giorno visitai molti degli Ibakujumoku di Hiroshima, avvicinandomi via via al luogo dove per la prima volta un ordigno atomico era stato utilizzato contro una popolazione inerme. Ricordo un altro magnifico ginkgo nel recinto del Tempio di Osembo, a 1130 metri, un albero della canfora, Cinnamomum canfora, all'interno del quadrilatero del castello di Hiroshima, a 1120 metri, un agrifoglio di corugane, Ilex rotunda, sempre nel castello, a 910 metri, una meravigliosa peonia, peonia suffruticosa nel tempio di Ojikongi, a 890 metri. Avvicinandosi al centro del disastro, gli Ibakujumoku iniziavano a diminuire. La temperatura al suolo nel luogo dove ci trovavamo alle 8:15 del 6 agosto 1945 aveva superato i 4.000 gradi centigradi. Molto probabilmente aveva raggiunto i 6.000 gradi centigradi. Il console mi aveva appena portato a vedere l'ombra, letteralmente, impressa sulle scale della Sumimoto Bank Company, lasciata dalla vaporizzazione della signora Mitsuno Oki, all'epoca di 42 anni, sorpresa dall'esplosione mentre era in attesa dell'apertura della banca. Nessuna speranza che alcunché potesse essere sopravvissuto a quella distruzione. Lo feci presente al console, che rispose sorridendo. Uomo di poca fede, la vita vince sempre, mi segua. Girammo l'angolo e ci trovammo di fronte, di nuovo lungo il fiume di Okawa, dove era la cupola della bomba atomica, l'unico edificio rimasto in piedi e preservato come Museo della Pace, che convenzionalmente segna il luogo dell'ipocentro. Ed era lì, di fronte a me, a meno di 400 metri, da dove ci trovavamo, e sempre lì, davanti a noi, sulla riva del fiume, il campione degli Ibakujumoku, un salice piangente, Salix babilonica, ricresciuto dalle radici rimaste vive sottoterra. Il suo cartellino indicava 370 metri dall'ipocentro. Sulla via di ritorno verso casa a Kitakyushu, quella sera, il console volle a tutti i costi invitarmi a cena in una locanda di sua conoscenza. Accettai di buon grado. Fu una serata divertente e bevemmo molto, come spesso accade tra gli amici in Giappone. Parlando degli incontri fatti ad Hiroshima, una cosa mi lasciava perplesso. Ogni volta che il console parlava degli Ibakujumoku, li definiva come alberi che hanno subito un'esplosione atomica. E questa lunga circolocuzione suonava buffa e suonava alquanto con la sua, per il resto, perfetta padronanza della nostra lingua. Così azzardai. Mi scusi, console, ma perché continua a dire che gli Ibakujumoku sono alberi che hanno subito un'esplosione atomica? Non sarebbe più semplice utilizzare una parola come sopravvissuti? Ecco la sua spiegazione. La questione è molto più complessa di quanto sembra, caro professore. Tutto nasce dal nome dato ai sopravvissuti, come dice lei, alla bomba. Il loro nome in giapponese è Ibakusha, letteralmente persona esposta alla bomba. C'è un motivo per questa scelta, che può afferrare. Si scelse questo termine al posto di sopravvissuti, perché questa parola, esaltando chi era rimasto in vita, avrebbe inevitabilmente offeso i moltissimi morti di quella tragedia. Per conseguenza anche gli Ibakujumoku sono chiamati allo stesso modo. Immagino le sembri strano, ma le assicuro che ogni Ibakusha è contento così e non avrebbe sopportato di essere chiamato sopravvissuto. Suggerì allora la parola reduci in italiano. Non la conosceva e gli piacque molto. La ringrazio molto per avermela insegnata. Suona molto bene. Brindiamo ai nostri amici reduci. Usciti dal ristorante insistetti per accompagnarlo a casa. Non li dimostrava affatto, ma il console aveva ampiamente superato gli 80 e aveva bevuto molto. In ogni modo l'ebbi vinta io e con una breve passeggiata l'accompagnai sotto casa. Ci salutammo, contravvenendo ad ogni regola nipponica, in virtù dei molti anni passati in Italia, il console mi abbracciò. Mi guardò serio in faccia e disse: «Parli degli Ibakujumoku, li faccia conoscere e venga ancora a trovarli». Poi si interruppe, indeciso. «Bisogna che glielo dica. Anche io sono un Ibakusha. Avevo 7 anni quando la bomba fece scomparire tutta la mia famiglia e chiunque conoscesse al mondo. Mi salvai perché l'aula della scuola elementare dove studiavo era protetta da una cortina di alberi. Io e 4 miei compagni siamo gli unici reduci di quella scuola. Eravamo 120 bambini». Ci pensò su un attimo, mi sorrise un'ultima volta e, girandosi per entrare in casa, mi ringraziò ancora per la compagnia.